Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. L'anno moriva assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Sulla piazza Barberini, sulla piazza di Spagna, una moltitudine di vetture passava in corsa attraversando. E dalle due piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità dei Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del palazzo Zuccari, attenuato. Le stanze andavano si empiendo a poco del profumo che esalava nei vasi i fiori freschi. Le rose, folte e larghe, stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavano sottili da una specie di stelo dorato, slargandosi in guisa di un giglio adamantino, a similitudini di quelle che sorgono dietro la Vergine nel tondo di Sandro Botticelli, alla Galleria Borghese. Nessun'altra forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma. I fiori, entro quella prigione diafana, paion quasi spiritualizzarsi. È meglio dare immagine di una religiosa o amorosa offerta. Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un amante. Tutte le cose attorno rivelavano infatti una special cura d'amore. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di pizzo si disegnava sul tappeto. L'orologio della Trinità dei Monti suonò le 3:30. Mancava mezz'ora. Andrea Sperelli si levò dal divano dove era disteso e andò ad aprire una delle finestre. Poi diede alcuni passi nell'appartamento. Poi aprì un libro, ne lesse qualche riga, lo richiuse. Poi cercò intorno qualche cosa con lo sguardo dubitante. L'ansia dell'aspettazione lo pungeva così acutamente che egli aveva bisogno di muoversi, di operare, di distrarre la pena interna con un atto materiale. Si chinò verso il caminetto, prese le molle per ravvivare il fuoco, mise sul mucchio ardente un nuovo pezzo di ginepro. Il mucchio crollò. I carboni sfavillando rotolarono fin sulla lamina di metallo che proteggeva il tappeto. La fiamma si divise in tante piccole lingue azzurrognole che sparivano e riapparivano. I tizi fumigarono. Allora sorse nello spirito dell'aspettante un ricordo. Proprio innanzi a quel caminetto, Elena, un tempo, amava indugiare prima di rivestirsi, dopo un'ora di intimità. Elena aveva molt'arte nell'accumular gran pezzi di legno sugli alari. Prendeva le molle pesanti con ambo le mani e rovesciava un po' indietro il capo ad evitare le faville. Il suo corpo sul tappeto, nell'atto un po' faticoso per i movimenti dei muscoli e per l'ondeggiar delle ombre, pareva sorridere da tutte le giunture, da tutte le pieghe, da tutti i cavi, soffuso di un ardore che chiamava al pensiero la Danae del Correggio. Ed ella aveva appunto le estremità un po' correggesche, le mani ed i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei, come nelle statue di Daphne, in sul principio primissimo della metamorfosi favoleggiata. Appena ella aveva compiuta l'opera, le legna conflagravano e rendevano un subito bagliore. Nella stanza, quel caldo lume rossastro e il gelato crepuscolo entrante pei vetri lottavano qualche tempo. L'odore del ginepro arso dava al capo uno stordimento leggero. Elena pareva presa da una specie di follia infantile alla vista della vampa. Aveva l'abitudine un po' crudele di sfogliar sul tappeto tutti i fiori che erano nei vasi, alla fine di ogni convegno d'amore. Quando tornava nella stanza, dopo essersi vestita, mettendosi i guanti o chiudendo un fermaglio, sorrideva in mezzo a quella devastazione. E nulla eguagliava la grazia dell'atto che ogni volta ella faceva, sollevando un poco la gonna ed avanzando prima un piede e poi l'altro, perché l'amante, chino, legasse i nastri della scarpa, ancora disciolti. Il luogo non era quasi in nulla mutato. Da tutte le cose che Elena aveva guardate o toccate, sorgevano i ricordi in folla e le immagini del tempo lontano rivivevano tumultuariamente. Dopo circa 2 anni, Elena stava per rivarcar quella soglia. Tra mezz'ora, certo, ella sarebbe venuta. Ella si sarebbe seduta in quella poltrona, togliendosi il velo di sulla faccia, un poco ansante come una volta, ed avrebbe parlato. Tutte le cose avrebbero riudito la voce di lei, forse anche il riso di lei. Dopo 2 anni. Il giorno del gran commiato fu appunto il 25 di marzo del 1885, fuori della Porta Pia, in una carrozza. La data era rimasta incancellabile nella memoria di Andrea. Egli ora, aspettando, poteva evocare tutti gli avvenimenti di quel giorno con una lucidezza infallibile. La visione del paesaggio nomentano gli si apriva dinanzi ora in una luce ideale, come uno di quei paesaggi sognati in cui le cose paiono essere visibili di lontano per un irradiamento che si prolunga dalle loro forme. La carrozza chiusa scorreva con un rumore uguale al trotto. Le muraglie delle antiche ville patrizie passavano dinanzi agli sportelli biancastre, quasi oscillanti, con un movimento continuo e dolce. Elena taceva, avvolta nell'ampio mantello di lontra, con un velo sulla faccia, con le mani chiuse nel camoscio, e riaspirava con delizia il sottile odore di eliotropio esalante dalla pelliccia preziosa, mentre sentiva contro il suo braccio la forma del braccio di lei. Ambedue si credevano lontani dagli altri, soli, ma d'improvviso passava la carrozza nera di un prelato, o un buttero a cavallo, o una torma di chierici violacei, o una mandra di bestiame. A mezzo chilometro dal ponte ella disse: «Scendiamo». Nella campagna la luce fredda e chiara pareva un'acqua sorgiva, e come gli alberi al vento ondeggiavano, pareva per un'illusione visuale che l'ondeggiamento si comunicasse a tutte le cose. Ella disse, stringendosi a lui e vacillando sul terreno aspro: «Io parto stasera. Questa è l'ultima volta». Poi tacque, poi di nuovo parlò a intervalli sulla necessità della partenza, sulla necessità della rottura, con un accento pieno di tristezza. Il vento furioso le rapiva le parole di sulle labbra. Ella seguitava. Egli interruppe, prendendole la mano e con le dita cercando tra i bottoni la carne del polso. «Non più, non più!» Si avanzavano, lottando contro le folate incalzanti, ed egli presso alla donna in quella solitudine alta e grave si sentì d'improvviso entrar nell'anima come l'orgoglio di una vita più libera, una sovrabbondanza di forze. «Non partire, non partire! Io ti voglio ancora, sempre!» Le nodò il polso e insinuò le dita nella manica, tormentandole la pelle con un moto inquieto in cui era il desiderio di possessi maggiori. Ella gli volse uno di quegli sguardi che lo ubriacavano come calici di vino. Il fiume pareva immobile e metallico in tutta la lunghezza della sua sinuosità. Allora egli cominciò ad incitarla con i ricordi. Le parlava dei primi giorni, del ballo al Palazzo Farnese, della caccia nella campagna del divino amore, degli incontri mattutini nella piazza di Spagna, lungo le vetrine degli orefici, o per la via Sistina, tranquilla e signorile, quando ella usciva dal palazzo Barberini, seguita dalle ciociare che le offerivano nei canestri le rose. Ti ricordi? Ti ricordi? Sì. E quella sera dei fiori, in principio, quando io venni con tanti fiori, tu eri sola accanto alla finestra, leggevi. Ti ricordi? Sì, sì. Io entrai. Tu ti volgesti appena, tu mi accogliesti duramente. Che avevi? Io non so. Posai il mazzo sopra il tavolino e aspettai. Tu incominciasti a parlare di cose inutili, senza volontà e senza piacere. Io pensai scorato. Già, ella non mi ama più. Ma il profumo era grande. Tutta la stanza già ne era piena. Segui. Segui, disse Elena con la voce fievole, china sul parapetto, incantata dal fascino delle acque correnti. Sul divano, ti ricordi? Io ti ricoprivo il petto, le braccia, la faccia, con i fiori opprimendoti. Tu risorgevi continuamente, porgendo la bocca, la gola, le palpebre socchiuse. Fra la tua pelle e le mie labbra sentivo le foglie fredde e molli. Se io ti baciavo il collo, tu rabbrividivi in tutto il corpo. Avevi la testa affondata nei cuscini, il petto nascosto dalle rose, e nulla era più amoroso e più dolce che il piccolo tremito delle tue mani pallide sulle mie tempie. Ti ricordi? Egli seguiva crescendo nella tenerezza, inebriato delle sue parole. Egli quasi perdeva la coscienza di ciò che diceva. Elena, con le spalle volte alla luce, andava si chinando all'amante. Ambedue sentivano, attraverso le vesti, il contatto indeciso dei corpi. Sotto di loro le acque del fiume passavano, lente e fredde alla vista. I grandi giunchi, sottili come capigliature, vi si incurvavano dentro, ad ogni soffio, e fluttuavano, largamente. Poi, non parlarono più, ma guardando si sentivano negli orecchi un rumore continuo, che si prolungava indefinitamente, portando seco una parte dell'essere loro, come se qualche cosa di sonoro sfuggisse dall'intimo del loro cervello, e si spandesse ad empire tutta la campagna circostante. Elena, sollevandosi, disse: «Andiamo, ho sete. Dove si può chiedere acqua?» Si diressero allora verso l'osteria romanesca, passato il ponte. Alcuni carrettieri staccavano i giumenti, imprecando ad alta voce. Come i due entrarono, nella gente dell'osteria non avvenne alcun moto di meraviglia. Tre o quattro uomini febbricitanti stavano intorno a un braciere quadrato, taciturni e giallastri. Un bovaro di pel rosso sonnecchiava in un angolo, tenendo ancora fra i denti la pipa spenta. Due giovinastri, scarni e biechi, giocavano a carte, fissandosi negli intervalli con uno sguardo pieno d'ardor bestiale. E lo stessa, una femmina pingue, teneva fra le braccia un bambino, cullandolo pesantemente. Mentre Elena beveva l'acqua nel bicchiere di vetro, la femmina le mostrava il bambino lamentandosi. «Guardate, signora mia! Guardate, signora mia!» Tutte le membra della povera creatura erano di una magrezza miserevole. Le labbra violacee erano coperte di punti bianchicci. Pareva quasi che la vita fosse di già fuggita da quel piccolo corpo, lasciando una materia su cui ora le muffe vegetavano. La femmina singhiozzava. Gli uomini febbricitanti guardavano con occhi pieni di un'immensa prostrazione. «Venite, venite», disse Andrea ad Elena prendendole il braccio, dopo aver lasciato sul tavolo una moneta, e la trasse fuori. Il vento imperversava. Una torma di cornacchie passò nell'aria accesa, in alto, schiamazzando. Allora, d'improvviso, una specie di esaltazione sentimentale prese l'anima di quei due, in conspetto della solitudine. Pareva che qualche cosa di tragico e di eroico entrasse nella loro passione. I culmini del sentimento fiammeggiarono sotto l'influenza del tramonto tumultuoso. Elena si arrestò. «Non posso più», e la disse ansando. La carrozza era ancora lontana, immobile, nel punto dove essi l'avevano lasciata. «Ancora un poco, Elena, ancora un poco. Vuoi che io ti porti?» Andrea, preso da un impeto lirico infrenabile, si abbandonò alle parole. Perché ella voleva partire? Perché ella voleva spezzare l'incanto? I loro destini ormai non erano legati per sempre. Egli aveva bisogno di lei per vivere, degli occhi, della voce, del pensiero di lei. Elena ascoltava, a testa bassa, affaticata contro il vento, senza rispondere. Dopo un poco ella sollevò il braccio per far cenno al cocchiere di avanzarsi. I cavalli scalpitarono. «Fermatevi a Porta Pia», gridò la signora salendo nella carrozza, insieme all'amante. E con un movimento subitaneo si offerse al desiderio di lui, che le baciò la bocca, la fronte, i capelli, gli occhi, la gola, avidamente, rapidamente, senza più respirare. «Elena, Elena!» Un vivo bagliore rossastro entrò nella carrozza, riflesso dalle case color di mattone. Si avvicinava nella strada il trotto sonante di molti cavalli. Elena, piegandosi sulla spalla dell'amante, con un'immensa dolcezza di sommissione, disse «Addio, amore, addio, addio». Come ella si sollevò a destra e a sinistra, passava la grande porta di due cavalieri scarlatti, tornanti dalla caccia alla volpe. Uno, il duca di Beffi, passando rasente, si curvò in arcione per guardare nello sportello. Andrea non parlò più. Egli sentiva ora tutto il suo essere mancare in un abbattimento infinito. La puerile debolezza della sua natura, sedata alla prima sollevazione, gli dava ora un bisogno di lacrime. «Addio», ripeté Elena. Sotto l'arco della Porta Pia, la carrozza si fermava perché egli discendesse.